Bravo. Grazie. Your behavior has to stop.

faccia spaziando. Perché il tuo giorno non è il tuo forno, se scegli bene chi ti sta intorno. Perché un bel giorno avrai un sorriso, pensando quel giorno te l'hai deciso. Perché il tuo giorno non è il tuo forno, però buongiorno. Il mio pensiero sta già creando e la mia mente sta già spaziando. Perché il tuo giorno non è il tuo forno, se scegli bene chi ti sta intorno. Perché un bel giorno avrai un sorriso, pensando a quel giorno che l'hai deciso. Ad ogni brano c'è il simbolo della cuffietta. Clicchi e votare al sole. Domenica 16 aprile è Pasqua. Uccianimini, regà. Discoteca Altro Mondo. Alle 22.30 chi suona? Gigi D'Agostino. Perfetto. Ma non suonerò solo io, ci saranno altri ospiti. Tipo? Dopo di me suonerà DJ Provenzano. Luca Nois. E poi chi c'è stato? Daniele Mondello. E dopo chiude il locale, perché poi si va alle volte. Si va in spiaggia. Dopo si va in spiaggia. L'ultima corriera vanno a casa? Non lo so, qui ve lo diremo lì. Ci vediamo lì. Il cammino di Gigi D'Agostino. pubblicità. Appiccio sta radio su M2O. Sta attento, sta in campana paravento. Ascoltando

sono musica e ritmi di D'Agostino. Festa delle scuole, discoteca Privilege, via Torino 80, località Airasta, provincia di Torino. Titolo: Hold On. Artista: Love Transistor. Pino di Scopare. Passaggio all'aperitivo. Passaggio all'aperitivo. Momento creativo. Il cammino di Gigi D'Agostino. Assaggio l'aperitivo. L'aperitivo di oggi è... Comprensioni sono così strane, sarebbe meglio evitarle, sai. Rischiare di avere ragione, la ragione non sempre serve. Ma invece devo ripartire, aspetta un altro viaggio. Sembrerà come senza fine, guarderò il paesaggio. Tanto mi tormento, immagino parlare con la gente. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il mio pensiero vola verso te, per raggiungere le immagini, confido ormai nella coscienza, prende le mie emozioni che non posso più scordare, il pensiero andrà a cercare, delle volte che ti sentirò distante, delle volte che ti vorrei parlare, e dirti ancora che sei solo tu la cosa che per me è importante. Signore e signori, Gigi D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino, fatto da un cuore molto deciso. Chi viaggia poco resterà piccino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Slope. Lento io lento me, hai capito? Senza di te, andiamo tutti al garage. Spettacolo questo. Ma che? Ragazza. Ah, è la Dana del Sono. Ci porta lontano. Lontano, lontano. Ogni giorno ci gira intorno. Ci gira intorno. Questo è il cammino. Questo è un buon giorno. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il disco anziano di oggi è. Sigla, ma sfumare perché devo respirare.